faccia in volto, e in ricompensa il suo capo reciso io porterò tu degna donna al piede. Non sia mai ver, non servo alma di tigre in petto. Già la sua crudeltà de mi scioglie dai suoi lacci e fa pormi in oblio la sua beltade. Lascio, ma come? Addio, soppone il cuore amante al labbro mio. Ah, tutto il suo rigore estinguere non puote in questo seno il troppo acceso ardore. E piena l'alma mia del barbaro dolcissimo sembiante, finge di non curarlo eppur l'adora, dice di non